e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi, oggi è la giornata mondiale dell'ictus, è una malattia che colpisce il cervello e fino a pochi decenni fa era considerata non prevenibile e non curabile. La buona notizia è che adesso la situazione è radicalmente cambiata. L'ictus si può prevenire e se preso in tempo non lascia segni. Proprio in questi giorni il ministro Lorenzin a Expo ha ricordato che la sfida di questo secolo è riuscire a non far ammalare le persone o farle ammalare il meno possibile. Ciascuno di noi naturalmente deve impegnarsi nel raggiungimento di questo obiettivo diventando soggetto attivo nella promozione e protezione della salute. La parola chiave è quindi prevenzione, quindi restate con noi, il nostro numero verde è già attivo, 800 24 00 24, ci occupiamo della salute del nostro cervello, ma scopriremo che per far star bene il cervello, come diciamo sempre, dobbiamo assicurare anche attenzioni al nostro cuore, sono infatti cuore e cervello una coppia unita nella buona e nella cattiva sorte, il benessere dell'uno condiziona il benessere dell'altro, quindi oggi in realtà prendiamo due piccioni con una fava, perché insomma, parliamo di cervello. Bello, e parliamo anche di cuore, li abbiamo entrambe, quindi 1 800 24 0024 una buona occasione per mettersi in contatto con noi. Nella seconda parte della trasmissione, come ogni giovedì, torna Investire Informati, occhi puntati sull'attualità economica. Faremo il punto della situazione, come sempre, con il punto di vista del piccolo risparmiatore. Di che cosa parleremo? Delle notizie che arricchiscono le pagine di cronaca finanziaria di questi giorni. L'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato sono sotto zero per quello che riguarda l'Italia. Ieri c'è stata l'asta bot a 6 mesi. Per la prima volta il Tesoro ha dovuto riconoscere rendimenti negativi. E poi le importantissime politiche delle banche centrali. Ieri c'era l'attesa decisione della Banca Centrale Americana che ha preannunciato un aumento dei tassi di interesse in dicembre, quando invece proprio la Banca Centrale Europea annuncerà nuove misure di allentamento. Come si mettono insieme tutte queste notizie? Faremo il punto con Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan. E come sempre aspettiamo le vostre domande all'800 24 0024. Allora, ci sono parole, lo sappiamo bene, no? Che solo a pronunciarle mettono paura, disagio. Una di queste è ictus, avrete sicuramente letto e vorrei risparmiarveli. I dati che indicano questa patologia come la più importante causa di invalidità e la terza causa di morte nei paesi occidentali dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Allora, io direi, lasciamo da parte i dati allarmanti, io non credo che fungano da molla per ridurre il problema. Invece lasciamo spazio alle buone notizie, no? Il nemico c'è, è inutile far finta di niente, ma noi abbiamo tutti gli elementi per evitare di incontrarlo e qualora questo dovesse capitare, perché può capitare, abbiamo armi che sfoderate in tempo ci possono salvare la pelle. Ma che cos'è l'ictus? Che cosa succede in pratica nel nostro cervello? Da dove parte il problema? Quali sono le situazioni che possono renderci più vulnerabili? Per rispondere oggi a tutte queste domande possiamo contare su due esperti, il dottor Giuseppe Miceli, che è direttore del Dipartimento di Neurologia d'urgenza dell'Istituto Mondino di Pavia. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Come si può dire, da oggi stop all'ictus. Ecco, questa è la nostra parola d'ordine e quindi abbiamo un neurologo per occuparci del nostro cervello, ma abbiamo già anticipato che cuore e cervello vanno un po' a braccetto. Infatti in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Fabrizio Oliva, che è responsabile dell'unità cure intensive cardiologiche e unità coronarica, dipartimento cardio-toraco-vascolare De Gasperi all'ospedale De Gasperi ospedale Niguarda. Buongiorno dottor Oliva e benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Cuore e cervello sembra uno slogan, ma vedremo, c'è un rapporto e una connessione estremamente importante. E voi ci aiuterete a scoprirla, intanto attiviamo subito i nostri ascoltatori, 800 24 00 24 per i vostri interventi, le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre esperienze. Dottor Miceli, vogliamo capire esattamente di che cosa stiamo parlando, che cos'è l'ictus? Beh, l'ictus cerebrale è causato da una rottura, da una chiusura improvvisa o la rottura di un'arteria nel cervello. Ne consegue un danno delle cellule cerebrali che è dovuto o alla mancanza di ossigeno o di nutrienti che sono portati dal sangue nel caso dell'ischemia, o anche al danno legato al sanguinamento, al sangue che esce dal vaso e che nel caso dell'emorragia. L'elemento caratteristico assoluto dell'ictus è la comparsa improvvisa, quindi non va confuso con nessuna delle manifestazioni che hanno una loro gradualità e progressività nel tempo. Solitamente l'evento si compare senza dolore, quando questo c'è è più facile che si tratti di un'emorragia, però anche in questo caso, diciamo, ci sono dei distinguo eventualmente da fare. Dottore, lei ha sottolineato che la caratteristica principale dell'ictus è proprio la sua comparsa improvvisa, come un fulmine a ciel sereno, ma aggiungiamo un'altra importante informazione. L'ictus si presenta in modo molto chiaro, ci sono dei sintomi che ciascuno di noi deve conoscere per sé, ma anche per essere d'aiuto ad altri. Sono cinque spie di allarme rosso, si contano sulle dita, e per ricordarlo c'è una parola che è PRESTO, vero dottor Miceli? Sì, PRESTO è un acronimo che abbiamo ideato per la campagna nazionale di informazione che citavo prima, Stop all'ictus, e indica in qualche modo come riconoscere i sintomi, cioè come agire di conseguenza. Quindi abbiamo la P, che vuol dire perdita di forza ad un braccio, una gamba, e la R, che sta a indicare la riduzione della vista, E che significa difficoltà a esprimersi o comprendere male, S è il sorriso, l'alterazione della rima della bocca, e T è il tempo, bisogna curare il più rapidamente possibile. L'ultima lettera, O, significa organizzazione, ne parleremo credo dopo, relativamente alla necessità di rivolgersi ad un ospedale dotato di pronto soccorso e ovviamente con una stroke unit. Altri sintomi, dottor Oliva, che vuole aggiungere a questi cinque campanelli d'allarme? Prevenzione vuol dire anche conoscere questi segnali, perché se noi siamo informati possiamo fare prevenzione, possiamo quindi attivarci precocemente, subito, per chiedere aiuto. Dottor Oliva, quali altri segnali lei suggerisce di tenere sotto controllo e soprattutto di conoscere? Sì, ci sono altri sintomi che sono la spia di condizioni cardiovascolari o di altre comorbidità che sono estremamente importanti da valorizzare, quindi ovviamente la presenza di vertigini importanti, una fame d'aria, una sensazione di cardiopalmo veloce o una stanchezza insolita che non era presente precedentemente, sono tutti dei sintomi da valorizzare, perché sono dei primi campanelli di situazioni che ovviamente devono essere prima prevenute e poi eventualmente trattate tempestivamente. Quindi vertigini, fame d'aria, cardiopalmo, vuol dire che il cuore che batte in modo strano, che sembra rotolare, è un'aritmia? Esattamente, può essere un sintomo di aritmia, quindi merita una consulenza medica ed eventualmente poi cardiologica, perché potrebbe esserci un'aritmia che è la possibile anticamera dell'ictus. Di questo parleremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione. Intanto abbiamo già Maria che ci chiama da Catania all'800 24 00 24. Maria, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Maria, che ci racconta? Ascolti, io sono da circa 3 anni che sono sempre ai pronto soccorsi, perché all'improvviso ho avuto questa fibrillazione e ho fatto l'opera, così hanno dedotto che era una fibrillazione atriale. Anche dopo diverse cure e pronto soccorsi hanno deciso a Roma Umberto I di fare l'ablazione. Ho fatto l'ablazione e questa fibrillazione non passa. Prima mi veniva ogni settimana, poi ogni 15 giorni, una volta ogni mese, poi ogni 2 mesi. Ora mi ritorno un'altra volta ogni 15 giorni. Quindi Maria, lei non è riuscita, nonostante l'ablazione, a risolvere il suo problema. Non ho risolto. Maria, lei stia lì, perché poi coinvolgiamo sicuramente il dottor Oliva per un suggerimento, ma soprattutto, dottor Oliva, Maria ha anticipato un fattore di rischio importante. Si tratta di una malattia, la fibrillazione atriale, che rappresenta una causa di rischio molto importante per l'ictus. Per questo oggi vogliamo parlare sia di cuore che di cervello, proprio perché questa malattia può interferire sulla salute del cervello. Che cosa rischia la persona a cui è stata diagnosticata la fibrillazione atriale di più rispetto alle persone che non sono malate? La presenza di una fibrillazione atriale aumenta il rischio di un ictus ischemico di circa 100 5 volte ed è responsabile del 15% più o meno di tutti gli ictus, quindi è un aspetto importante che deve essere valorizzato e adeguatamente trattato. Sicuramente la prevenzione inizia prima col controllo dell'ipertensione arteriosa, dell'insufficienza cardiaca, di altre patologie valvolari cardiache, ma quando si presenta la fibrillazione atriale necessita ovviamente di essere curata tempestivamente, soprattutto nella prevenzione di questi ictus che sono, come dicevo, di natura cardioembolica. È estremamente importante il porre in atto un trattamento anticoagulante che è in grado di ridurre in maniera significativa il rischio tromboembolico di oltre il 60%. Quindi ci sono le cure disponibili. Ci sono e c'è modo di diagnosticarla. Poi naturalmente torneremo a Maria, ma a cui chiediamo magari di scriverci una mail in modo che il dottor Oliva possa magari darle delle indicazioni più mirate al suo caso. Ci sono tante iniziative nel corso della giornata di oggi. Ricordo sempre l'impegno di Alice, che su tutto il territorio organizza appunto eventi, incontri, screening gratuiti. Andate sul sito di Alice, trovate tutte le indicazioni in modo che possiate recarvi vicino a casa vostra, dove sicuramente troverete delle porte aperte ad attendervi per aiutarvi a fare prevenzione, ma soprattutto per darvi delle informazioni. Molti di voi mi scrivono: ma quale prevenzione se per un esame ci vogliono 12 mesi? Affronteremo naturalmente anche questo tema insieme ai nostri esperti, che ci potranno dare un consiglio, no? Loro che la prevenzione cercano di farla e di metterla in atto, di insegnarla, e soprattutto anche assistono le persone che, nonostante la prevenzione, si trovano a confrontarsi con una malattia. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo con i nostri ospiti insieme a Deborah. Vi aspettiamo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Allora, oggi stiamo parlando di ictus, si celebra oggi la giornata mondiale, una malattia che colpisce il cervello ma che è evitabile, si può evitare conoscendo naturalmente i fattori di rischio, facendo una buona prevenzione, soprattutto capire che il tempo è vita, il tempo è cervello. Abbiamo insieme ai nostri esperti ricordato i segnali che ci possono che possono evidenziare la presenza di un ictus, conoscerli può fare davvero la differenza. Allora, 800 24 00 24, a proposito di sintomi, dottor Miceli, a cui prestare attenzione: a volte la vista si offusca, si ha difficoltà nel parlare, si sente magari il formicolio, ancora si ha una forte cefalea, ma il tutto dura pochi minuti e tutto torna come prima. In questo caso voi parlate di TIA, che sta per attacco ischemico transitorio. Come ci si comporta? È pericoloso? È un mini ictus? Quali controlli fare? Insomma, è un chiaro campanello d'allarme? Oppure, dato che passa, vuol dire che insomma, è tutta la situazione è tornata come prima? Sì, la risposta è sì, è un chiaro campanello d'allarme, perché l'attacco ischemico transitorio ha, come ha detto lei, gli stessi sintomi dell'ictus, però questi durano pochi minuti e spesso non causano un danno permanente. Sono veri campanelli d'allarme perché la diagnosi intanto spesso non è esattamente quella vascolare, quindi il paziente deve essere valutato adeguatamente in ospedale, però è sempre fondamentale rivolgersi, trattandosi di un fatto che può essere ischemico, al pronto soccorso in ospedale, che meglio se dotato di stroke unit, dove ovviamente vengono effettuati i controlli. Mi spiega che cos'è quella stroke unit, così la raccontiamo ai nostri ascoltatori? Sono dei centri dedicati, specializzati? Il termine già lo indica, dottor Miceli? Sì, noi abbiamo imitato le unità di terapia intensiva coronarica con le stroke unit, ovviamente non abbiamo lo stesso livello di intensività, sono unità semi-intensive, quindi dotate di monitor nelle quali ricoveriamo i pazienti critici in fase acuta di ictus, nell'ambito delle quali però c'è tutta un'attività che va verso la fisioterapia, la logopedia, al di là della gestione della fase iperacuta, e poi avvia, diciamo, questi pazienti laddove sia necessario verso l'ambiente di tipo riabilitativo. È un momento di osservazione e terapia della fase immediatamente acuta del paziente con ictus. È fatto da personale dedicato, medico, diciamo di fisioterapia, infermieristico, quindi assolutamente specificatamente orientata alla terapia dell'ictus. Dottor Oliva, insomma, anche i neurologi per l'ictus vorrebbero avere un modello che assomiglia a quello che si ha per il cuore, per l'infarto, che fa scuola in questo senso. Certo, certo, la cura dell'infarto miocardico acuto ha sicuramente fatto scuola e io credo che la strada intrapresa dalla neurologia sia una strada estremamente importante di cui già si vedono alcuni risultati. Credo che però per quanto appunto riguarda la prevenzione è estremamente importante partire da lontano e quindi nella cura di quelle che sono le patologie e le condizioni di rischio per patologie cardiovascolari. Questo io credo che sia una sottolineatura importante, doverosa, soprattutto rivolgendosi appunto a un pubblico laico, quindi credo che sia importante. Grazie dottore Oliva, infatti abbiamo detto che l'ictus ha dei fattori di rischio, come accennavano i nostri esperti, che lo rendono naturalmente più probabili in alcuni soggetti rispetto ad altri. Allora proviamo a capire qualcosa di più, abbiamo preparato una serie di domande, ascoltiamole attentamente perché poi io vi invito, se vi riconoscete in uno o più di queste indicazioni, a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 per saperne di più. Avete o avete avuto familiari che hanno sofferto di ictus o di un problema serio di natura cardiovascolare? Siete fumatori? Siete sovrappeso? Dai vostri ultimi esami del sangue, avete alti valori di colesterolo e di trigliceridi? Soffrite di ipertensione? Avete uno stile di vita sedentario o fate poca attività fisica? Come vi dicevo, se avete risposto sì ad alcune di queste domande, chiamateci. Dottor Oliva, nella nostra scheda c'è un grande assente che ci mostra ancora una volta la relazione molto stretta tra salute del cuore e salute del cervello, una coppia unita nella buona e nella cattiva sorte. Parlo della fibrillazione atriale, l'abbiamo già citata e incontrata all'inizio della trasmissione, che tra l'altro è una delle aritmie più diffuse, ma che non sempre viene diagnosticata, intercettata e quindi trattata adeguatamente. Adesso noi dobbiamo dare la linea al GR, vi diamo quindi il tempo di chiamare il nostro numero verde subito dopo per saperne di più sui rischi, sui fattori di rischio dell'ictus e per avere anche delle indicazioni sulla corretta prevenzione. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. 183 giorni, 141 padiglioni, milioni di visitatori da tutto il mondo. Segui lo speciale di Radio 24 su Expo Milano 2015 con i nostri inviati e le voci dei protagonisti. Una diretta di 2 ore per vivere da vicino la giornata di chiusura dell'Esposizione Universale e tirare le somme dei 6 mesi più discussi del 2015. Sabato 31 dalle 18 alle 20 su Radio 24. Cuore e denari. Riprendiamo ad affrontare il tema del giorno, della prima parte di Cuore e Denari. Oggi è la giornata mondiale dell'ictus e lavoriamo sulla prevenzione. La giornata di quest'anno è dedicata alle donne. Io voglio riprendere un po' il nostro discorso leggendovi un sms di Martina che ci ha scritto: ho 22 anni. Volevo dire una cosa importante sull'ictus che non tutti sanno. L'ictus colpisce anche persone giovanissime. Io ho avuto un ictus quest'estate, fortunatamente sto bene, però visto che è un argomento importante bisogna dire, specificare che tutte le persone sono a rischio di qualsiasi età. Vorrei commentare rapidamente questo sms che manda un messaggio forte e chiaro con i nostri ospiti, il dottor Giuseppe Miceli, direttore del Dipartimento di Neurologia d'Urgenza dell'Istituto Mondino di Pavia, e con il dottor Fabrizio Oliva, che è responsabile dell'unità cure intensive cardiologiche e unità coronarica al Dipartimento Cardiotoracovascolare De Gasperis di Niguarda. Dottor Miceli? Sì. Quindi buongiorno. Può colpire anche le donne e anche le giovani donne. Quali sono le giovani? Fa una differenza di genere. Quali sono le donne più a rischio? Martina ci ha sottolineato la sua giovane età, 22 anni. Sì, bisogna fare un attimo questa distinzione tra appunto giovani e poi considerare i giovani, le giovani donne. Noi abbiamo su 200.000 casi di ictus cerebrale all'anno ricoverate negli ospedali italiani, abbiamo circa 5.000 persone con meno di 45 anni e circa 10.000 con meno di 54 anni, quindi è già una popolazione abbastanza consistente che ha come dove l'ictus diciamo, trova come fattore di rischio non tanto soltanto le aritmie che sono frequenti anche in questa età e l'ipertensione, anche lei è piuttosto anticipata rispetto al passato, a condizioni come anomalie congenite delle arterie, l'abuso di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, e poi una condizione apparentemente banale come l'emicrania con aura che appunto soprattutto nelle donne, soprattutto se fumatrici o in terapia con la pillola, finiscono con l'essere elementi diciamo causativi certe volte abbastanza importanti. Quindi la pillola anticoncezionale associata al fumo può aumentare nelle donne predisposte il rischio di ictus, sì. Questo è il messaggio. Esatto. Dottor Oliva, noi dobbiamo tornare a lei per parlare di fibrillazione atriale, abbiamo detto un fattore di rischio molto importante che può aumentare sensibilmente il rischio di avere un ictus, abbiamo detto che è un'aritmia, come si fa a riconoscerla? Perché spesso la fibrillazione atriale non viene riconosciuta, non portiamo all'attenzione del nostro medico questi sintomi e quindi nel frattempo la fibrillazione atriale fa danni e espone a dei rischi. Dottor Oliva, che cosa ci dobbiamo portare a casa da questa giornata? Sì, l'aritmia è quella più frequente dal punto di vista delle aritmie cardiache ed è in continua crescita nella popolazione generale. Si deve tornare innanzitutto su quelli che sono i fattori di rischio come l'ipertensione, l'insufficienza cardiaca, le patologie valvolari cardiache, ma anche altre condizioni come obesità, diabete e patologie polmonari. Questi devono essere assolutamente riconosciute tempestivamente e trattate. I sintomi a volte sono estremamente atipici e molto generali, quindi come dicevo può essere un esordio con una sensazione aritmica, un cardiopalmo, una stanchezza insolita. In queste condizioni sicuramente è importante riferirsi al proprio medico, il quale poi valuterà se è necessaria una valutazione anche specialistica cardiologica, perché come dicevo precedentemente c'è la possibilità di porre in atto dei trattamenti farmacologici anticoagulanti che riducono sensibilmente il rischio. Abbiamo tra l'altro dei nuovi farmaci a disposizione che hanno dimostrato di avere una efficacia, che necessitano un minor monitoraggio di laboratorio, quindi tutti questi sono dei vantaggi che con la consulenza dello specialista possono essere posti in atto e quindi possiamo cercare di curare meglio questi pazienti, ovviamente. Grazie dottor Oliva, io le avevo promesso che l'avrei lasciato libero prima del GR, invece l'abbiamo trattenuto, ancora qualche minuto, la ringrazio, le auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata. Le invieremo le richieste dei nostri ascoltatori a cui non siamo riusciti a dare voce, volevo solamente prima di concludere sentire la testimonianza di Paolo dalla provincia di Novara. Buongiorno Paolo, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie Paolo. Ho seguito il questionario precedente e direi che ci siamo, mi dichiaro colpevole perché veramente mi ritrovo in tutte le casistiche. Beh, l'importante è già conoscerlo, no? Conoscere, infatti, diventare consapevole, ormai si abusa di questa parola ma nella prevenzione aiuta. Sì. Quindi Paolo. No, infatti casca a fagiolo perché proprio questa settimana, perché pensavo di avere solo dei problemi visivi, mi sono recato a fare una visita specialistica e l'oculista mi ha detto no, guardi, l'occhio va bene ma dovrebbe fare un Doppler alle carotidi perché qua potrebbe essere un problema. E con gli altri sintomi mi ritrovo perché formicolio le mani, soprattutto al lato destro, e quando faccio degli sforzi, poi l'altro giorno una riunione di lavoro dove ci sono state delle tensioni, mi sento. Certo, perché anche lo stress ci mette lo zampino, c'è addirittura una ricerca. Un soffoco al collo e dei dolori proprio come ci fossero. Quindi dice meglio chiamiamo. Quando faccio delle fatiche, poi mi se nebbia un po' la vista, detto, vabbè, allora vorrei sapere se rientro in questo caso, visto che si parla in questi giorni anche di alimentazione, se c'è un'alimentazione ideale per risolvere in parte il problema e comunque. Paolo, ci occupiamo subito di lei. Grazie per aver chiamato, perché il dottor Miceli può dare sicuramente delle indicazioni a Paolo che fungono un po' di riassunto, no, della puntata di oggi. Dottor Miceli. Sì, sono rimasto colpito da due elementi riportati da Paolo, e cioè il disturbo visivo, immagino transitorio, per cui le hanno detto di fare un Doppler delle carotidi. Questo è il classico attacco, potrebbe essere il classico attacco ischemico transitorio in presenza di una placca carotidea che dà, guarda caso, il disturbo visivo da un occhio che recede dopo pochi minuti. E poi l'altro elemento, a parte alcuni che sono ovviamente più di competenza cardiologica, noi siamo sempre molto preoccupati di tutta la patologia, diciamo, cerebrale che compare con lo sforzo, e deve esserlo anche qualunque ascoltatore, perché tutto quello che accade con lo sforzo di cerebrale, che va dal dolore all'annebbiamento della vista o altro, è meritevole di una valutazione anche neurologica ed eventualmente ad indagini più approfondite. Me lo traduca bene, quindi vuol dire che se io corro, sollevo dei pesi, sono sotto stress, cosa vuol dire sotto sforzo? Sotto sforzo vuol dire il sollevamento dei pesi, la corsa, può essere il rapporto sessuale, qualunque tipo di condizione che generi una condizione di sforzo, diciamo, estremo, che può essere appunto causa di, può indurre dei fenomeni specifici. La cefalea improvvisa è una cefalea che compare alla fine dello sforzo, durante lo sforzo, è una cefalea che mi lascia sospettare l'aneurisma cerebrale piuttosto che non altre cose. Ovviamente io parlo delle cose peggiori possibili, perché mi devo cautelare anche, e la persona si deve cautelare, e lo stesso per l'annebbiamento della vista. Ci sono ad esempio malformazioni, piccole anomalie del passaggio tra cranio e midollo spinale e colonna vertebrale che inducono appunto questo annebbiamento della vista con lo sforzo. Spesso è anche la combinazione con l'ipertensione. Insomma, sono situazioni che vanno, come dire, documentate meglio, studiate un pochettino meglio prima di sottovalutarle nell'ottica della prevenzione di cui si parlava prima. Grazie dottor Miceli. Allora, attenzione, quindi noi metteremo i segnali di allarme naturalmente sulla nostra pagina. Non dobbiamo allarmarci, dobbiamo occuparci della nostra salute. Quindi se volete scriverci, se avete dei casi, noi saremo lieti di inoltrare le vostre richieste ai nostri esperti. Non a caso oggi abbiamo avuto proprio un neurologo e un cardiologo. Certo. Non sottovalutate i segnali che vi dà il vostro cuore. Il dottor Oliva è stato molto chiaro, e quindi una sorta di fame d'aria, un ritmo che cambia, ma non sottovalutate neanche i segnali che vi manda il cervello. Questo è il messaggio conclusivo, dottor Miceli, possiamo concludere così? Sicuramente sì. Noi abbiamo una serie di condizioni che, come detto all'inizio, possono farci sospettare un evento. Alcuni elementi, ribadisco, l'esordio acuto, improvviso, sono sicuramente molto importanti per farci venire il sospetto di qualcosa che è meglio non sottovalutare, e poi non aspettare, chiamare i mezzi di soccorso, arrivare più rapidamente in pronto soccorso, perché dove si può fare bisogna fare rapidamente. Il tempo è vita, il tempo è cervello. Dottor Miceli, grazie per il suo intervento, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Vedi, dopo la scuola di prevenzione. Adesso andiamo su un altro banco di scuola, quello nostro tradizionale del giovedì. Voltiamo pagina. Investire informati. Ci sono più persone, più famiglie, un po' meno pessimiste sul futuro, qualcuno che riesce a risparmiare di più, emergono alcuni meno che sono diventati più, qualcuno che risparmia di più, qualcuno che ha più fiducia, qualcuno che riesce naturalmente ad avere una prospettiva più serena. Però in Italia, se non si eliminano tre elementi negativi, possiamo fare tutte le riforme di questo mondo, ma la difficoltà ci sarà sempre: l'evasione fiscale, la corruzione e la burocrazia. E credo che in questa direzione bisogna impegnarsi a fondo e picchiare duro. Eh sì, tre belle piaghe per il nostro paese, le ha sottolineate il presidente dell'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, Giuseppe Guzzetti. In che occasione? Ieri è stata la giornata mondiale del risparmio, come oggi è la giornata dell'ictus. Anche ieri c'è stata una giornata importante che riguarda i risparmiatori. Avete sentito dalle sue parole, ci sono alcuni segnali di ottimismo, anche se le difficoltà del nostro paese sono sempre lì. Le dobbiamo tenere molto ben presenti, ma possiamo azzardarci a quanto pare a dire che questa giornata del risparmio 2020 2015 ha trovato cittadini e risparmiatori un po' più ottimisti degli anni passati. Si riferiva ad alcuni passaggi precisi il presidente Guzzetti della fotografia che viene scattata ogni anno in occasione di questa giornata dal Ipsos. È una indagine naturalmente su un campione di risparmiatori e famiglie. Gli intervistati stimano di tornare in quanto a fiducia ai livelli pre-crisi solo nel 2020, ma riguardo alla situazione economica delle famiglie c'è un quadro in miglioramento. Sul fronte degli investimenti torna l'interesse sul mattone, anche Ipsos lo ribadisce, anche noi ne abbiamo parlato tante volte. Quest'ultimo nel 2006 era l'investimento ideale per il 70% degli italiani, con la crisi la quota è scesa al 24%, adesso sta risalendo e torna ad essere l'investimento ideale nel centro e nel nord del paese. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha rimarcato l'importanza del risparmio nel nostro paese. Il Presidente ha detto: l'Italia ha una tradizione solida in questo campo, nonostante la crisi abbia intaccato le riserve di molte famiglie, il risparmio rappresenta un elemento di forza della nostra economia e società. Buongiorno e ben ritrovato ad Investire Informati a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Bentornato. Infatti, i temi non ci mancano oggi, non commenteremo tanto questa giornata del risparmio italiana, anche se ci fanno piacere queste indicazioni che Guzzetti e Mattarella appunto hanno fornito. Ci interessa commentare invece le notizie di attualità e cronaca economica, per cui intanto, se volete, mano al telefono 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete avere dei chiarimenti sui temi più importanti che compaiono sulle pagine di cronaca finanziaria in questi giorni. Io direi che dobbiamo necessariamente partire da quello che è successo nelle ultime ore oltre oceano. Andiamo negli Stati Uniti, alla Banca Centrale Americana, e allora la Federal Reserve proprio ieri sera ha fatto capire che finalmente, perché è auspicato da moltissimi, questo aumento dei tassi di interesse arriverà, e questo succederà presumibilmente, la percentuale diciamo di intervento è aumentata, nel meeting del 15 e del 16 dicembre potrebbe arrivare questa prima stretta. Le chiedo subito un commento, Alfieri, su questa novità a metà, che cosa significano per noi le notizie in arrivo dagli Stati Uniti? Ma innanzitutto è corretto dire che è una notizia a metà, e da molto tempo ovviamente che è il dibattito un po' quasi a volte da bar sul fatto quando la Fed inizierà a rialzare i tassi dopo molti anni. Direi che l'angolo interessante sicuramente è quello di dire che se la Fed inizia a valutare in modo molto più serio il rialzo dei tassi, significa che l'economia americana ha intrapreso una fase di robusta crescita, al di là ovviamente delle oscillazioni dei dati che mensilmente vediamo sono più o meno ottimisti, a volte molto ottimisti, a volte un po' meno. C'è da dire che le basi solide della crescita vengono comunque ormai confermate, l'inflazione è sotto controllo, la crescita dell'occupazione è stabile, ha dei livelli, ricordiamo, storicamente molto molto bassi, quindi diciamo che l'economia americana e anche la corporate americana sembrano ormai su un sentiero molto robusto, e il rialzo dei tassi della Fed, se avverrà a dicembre, non farà altro che confermare questo. Tra l'altro poi nel comunicato appunto rilasciato al termine della riunione del Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Federal Reserve, questo consesso di governatori che decidono proprio le iniziative di politica monetaria, è stato detto: promettiamo un successivo approccio equilibrato di politica monetaria, quindi significa che nel 2016 poi non è che tutti i mesi si andrà a nuovi interventi sui tassi, no Alfieri? È presumibile pensare che l'approccio sarà appunto molto cauto poi successivamente. Sì, le nostre previsioni sono assolutamente in linea con questa sua valutazione. Non riteniamo che la Fed inizierà in modo ad aggressivo ad alzare i tassi, perché non ve ne sono le ragioni, quindi noi aspettiamo, probabilmente ci aspettiamo un rialzo dei tassi alla fine di quest'anno, probabilmente due o tre rialzi nel 2016. Alla luce però, non ci dimentichiamo, alla luce dell'andamento dei dati macroeconomici che arriveranno dagli Stati Uniti. Allora, tassi è la parola più pronunciata dai giornali finanziari, ma anche da parte nostra quando commentiamo appunto l'andamento di borsa, perché che cosa è successo in questi ultimi due giorni? Il Tesoro italiano aveva in programma delle aste piuttosto corpose di titoli di Stato, due giorni fa ha messo sul mercato appunto CTZ con un importo di 6 miliardi di euro, questi sono i bot semestrali, adesso non ho il dato sull'importo appunto dei CTZ che sono stati collocati 2 giorni fa. Il tema è che questo titolo di Stato ha avuto un rendimento negativo, era il titolo biennale, esattamente come è successo ieri per il bot a 6 mesi, il Tesoro ne ha piazzati 6 miliardi, anche in questo caso c'è stato il rendimento medio in calo allo 0,055%, dal più 0,023% di settembre, il nuovo minimo storico dopo quello che era stato toccato ad aprile scorso, quando i rendimenti erano praticamente a zero. Come la dobbiamo leggere questa notizia, Alfieri? Innanzitutto bisogna dire che bisogna spaccare, per così dire, la notizia in 2 componenti. Una meramente tecnica: le banche sono alla ricerca ovviamente di rendimenti, la BCE in questo momento, ricordo, remunera il deposito con un tasso negativo e quindi è evidente che le banche cercano soluzioni di investimento alternativo, poiché in questo momento i bot, anche se rendono in termini negativi, ma rendono poco sotto lo zero, le banche sono, per così dire, invogliate ad investire lì piuttosto che andare alla BCE, dove hanno, certo, dei rendimenti negativi molto superiori. L'altro fattore che a noi interessa molto di più è invece, per così dire, quello psicologico. È evidente che anche se i tassi in Italia iniziano ad essere negativi, significa che ci stiamo allontanando dal momento critico e soprattutto gli spread anche sui titoli di Stato iniziano ad essere molto molto inferiori e quindi più vicini a quelle delle economie, per così dire, migliori, valutate migliori qualitativamente, come la Germania, Austria e quant'altro. Quindi il sentiero virtuoso si è ormai intrapreso e questi dati non fanno altro che confermarlo. Infatti il Tesoro è molto contento dell'andamento di queste anni, di queste aste, perché la spesa per interessi continua a scendere progressivamente, appunto con un gran sospiro di sollievo per le casse dello Stato. Volevo leggere ai nostri ascoltatori, in modo tale che la possano commentare, la stessa domanda che il collega del Sole 24 Ore Andrea Franceschi fa stamattina dalle pagine del quotidiano. Cosa fareste voi? Affidereste i vostri risparmi ad una banca se questa vi promettesse di restituirvi al termine del periodo concordato una cifra inferiore a quella che avete versato? Io ti do 100, fra 6 mesi la banca ti ridà 98-99. Insomma, pur di avere la totale certezza della restituzione quasi integrale del capitale, insomma, rinuncereste a qualcosa oppure siete ancora a caccia quantomeno di un minimo rendimento? E quant'è per voi quel minimo rendimento? Se volete condividete con noi queste vostre considerazioni all'800240024. Nella seconda parte del programma arriverà anche il domandone. Volevo segnalare a Marisa da Pordenone, che ci ha chiamato, che la puntata sui buoni fruttiferi, Marisa, la facciamo domani, per cui guardi, le rinvio la sua telefonata se vuole, senza che domani si neanche si spenda, venire l'acquolina in bocca. Esatto, la chiamiamo direttamente domani, così siamo assolutamente tranquilli di poterle far rispondere ad una persona che si occupa esclusivamente di questo argomento. C'è una pronuncia importante dell'arbitro bancario finanziario su un pacchetto di buoni fruttiferi postali che sono stati distribuiti negli anni passati. Molto i rendimenti sono stati ritoccati unilateralmente dal Tesoro, una faccenda che ha scatenato un po' di polemiche. Domani torneremo a riparlarne. Da una parte la Federal Reserve, Alfieri, che alzerà un tantino, proprio un filino, i tassi di interesse da dicembre, dall'altra parte la Banca Centrale Europea che, come ha detto Mario Draghi nei giorni scorsi, alla luce di quello che sta accadendo e dati macroeconomici per nulla soddisfacenti, è costretto ancora una volta a mettere mano al portafoglio e ad allentare ulteriormente la politica monetaria per l'Eurozona. Allora, ci spiega intanto concretamente che cosa farà Draghi invece a dicembre? Diciamo che noi ci aspettiamo alcuni passi ulteriori. Uno potrebbe essere quello di ulteriormente abbassare il tasso già negativo sui depositi, e per questo motivo ovviamente l'effetto sulle aste di ieri, presumibilmente anche di quelle dei prossimi giorni, sarà favorevole. Evidentemente continua a scendere il rischio di depositare presso la Banca Centrale Europea sempre a tassi di deposito negativi sempre più alti. Un'altra possibilità secondo noi è quella di aumentare la dotazione di acquisti che la BCE può fare attraverso un'ulteriore diversificazione. e il terzo, probabilmente il terzo passaggio sarà quello di estendere questa manovra di acquisto per un ulteriore trimestre o due trimestri. Quindi sarà un pacchetto di iniziative, perché chiaramente, come abbiamo intuito e come vediamo, ormai non è più possibile utilizzare solo uno strumento, certo. Bisogna essere molto flessibili, operare su vari tavoli, per così dire, perché solo in questo modo si riescono a raggiungere dei risultati concreti. Operare su vari tavoli, mi ha fatto venire in mente una scena di cuore, naturalmente. Allora, sono già le 11:31, devo raccontare cosa succede oggi in borsa. C'è chi ci chiede intanto qualche commento su vicende di cronaca, c'è un'ascoltatrice o un ascoltatore, non si firma in realtà, parlate di Deutsche Bank, c'è stata una perdita record per l'ultimo trimestre di questa grande banca tedesca per una serie di svalutazioni che ha dovuto mettere in bilancio, 6 miliardi, effettivamente una cifra importante. Non vedo una reazione particolarmente dirompente in borsa, ma magari poi parleremo un po' complessivamente dello stato di salute delle banche europee, se non altro per capire perché questa politica monetaria così espansiva ancora alle banche si trasmette relativamente e poi le banche a loro volta non la trasmettono all'economia reale. Ma prima di tutto la borsa. Cuore e denari. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia-cia-cia. Non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. E dopo aver sentito le ultime dai mercati, continuiamo dopo il nostro cia-cia-cia di borsa con i nostri consigli in materia di risparmio e di investimento, con i nostri commenti sull'attualità finanziaria. La parola d'ordine è sempre lei. Diversificare. No, attualità, volevo soffermarmi su questa. Tutti gli elementi importanti della nostra rubrica Investire Informati. Me la passi è la seconda, che ti devi sempre ricordare. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande e curiosità. Ho anche chiesto a voi ascoltatori, fra un po' arriva anche il domandone, per cui veramente ci aspettiamo tantissimi interventi da parte vostra, ma vi ho chiesto nella fattispecie la stessa cosa che chiede questa mattina sul Sole 24 Ore Andrea Franceschi. Affidereste i vostri risparmi ad una banca se questa vi promettesse di restituirvi al termine del periodo concordato e pattuito una cifra inferiore di quella che voi gli avete versato? Lo fareste perché comunque, a costo di avere la totale sicurezza di protezione del vostro denaro, vi accontentate pure di avervi di avere indietro qualcosa a tasso negativo? Tu non lo faresti? Io non lo farei. Eppure questa, Alfieri, questa tendenza c'è e tra l'altro è anche consolidata da tempo. Il bot a 6 mesi, ieri tasso negativo, 2 giorni fa è successo per il CTZ, biennale peraltro, per cui anche quello è un elemento interessante. Viene molto enfatizzato l'aspetto del bot semestrale che è finito in negativo, ma anche il fatto che un titolo a 2 anni sia in negativo, forse ancora peggio. Beh, in parte, come dicevo prima, tecnicamente ha una sua ragione d'essere, ma secondo me sulla parte un po' più lunga della curva vale il secondo discorso. Cioè, psicologicamente oggi gli investitori in questo momento, soprattutto penso agli istituzionali, guardano l'Italia sempre con maggiore tranquillità e quindi si spingono, per così dire, verso orizzonti temporali ancora più lunghi, perché i rischi, diciamo, sono sempre minori. Allora, a proposito di questi tassi negativi, Max da Milano, subito pronta la domanda per noi all'800 24 00 24, per cui lui dice: Max, non li capisco proprio, che cos'è che non le è chiaro? Buongiorno intanto. Buongiorno Deborah, tra l'altro complimenti perché trattate degli argomenti complicati in maniera molto semplice che tutti i comuni mortali possono capire. Meno male, a cominciare da noi due, Max, perché cerchiamo di capirle anche noi, che siamo abbastanza gnucche comunque alla fine. Allora, lì concettualmente proprio non lo capisco e mi spiego. Ma chi è quello stupido che presta a una terza persona un capitale e a termine riceve ancora meno soldi? In più, anche se remota, avendo la possibilità di non avere il capitale di prestato, uno se lo tiene in tasca e punto finito. È il grande interrogativo, Max, sul quale effettivamente si fanno delle domande in tanti, a partire dai grandi gestori professionali, appunto come JP Morgan, che poi magari, immagino, vada ad investire nel sistema Italia con lo stesso principio, appunto, per molto incomprensibile, che indicava Max. E qual è l'interesse di dover continuare, appunto, cioè la ricerca della sicurezza altrove? Nicoletta, ma mi chiedo, ma la sicurezza, se ti tieni i soldi in tasca o sul conto, la sicurezza ce l'hai, perché qualcuno te le rapina. No, li vai incontro. No, beh, questo non è vero, perché in realtà il tema della rapina è un altro. Detto questo, Alfieri, andiamo un po' al ragionamento complessivo attorno al comportamento appunto degli investitori professionali, istituzionali, quindi parliamo anche di grandi portafogli, a prescindere da quello che può fare un piccolo che magari non ha tanta confidenza con le questioni finanziarie, dice: a me non importa, io voglio rinnovare i miei botte ogni 6 mesi anche se non ottengo niente, non mi importa. Però insomma, magari uno che ha un discreto capitale da investire, per quale motivo punta su un investimento sotto zero? No, allora, come avevo premesso, si sta parlando ovviamente di investitori professionali che sono obbligati ad investire, quindi non sto parlando ovviamente di chi può, avendo a disposizione somme non rilevanti, fare scelte di investimento variegate, quindi penso ovviamente all'investitore individuale. Stavo parlando proprio dei professionisti, di chi come grandi portafogli istituzionali sono obbligati ad investire in modo continuo anche su strumenti ad altissima di altissimo rating o meno, e quindi hanno un'alternativa: o vado dalla BCE e ho ovviamente un deposito che mi frutta un rendimento negativo molto più negativo di quello meno 0,05, che in questo momento sembra essere il minore dei mali. Definirei perché in questo caso il minore dei mali. Ricordiamo proprio che tra le ultime cartucce sparate da Mario Draghi c'è anche proprio questa di scoraggiare i depositi bancari, offrendo loro tasso negativo, appunto la manovra, cacciandoli proprio via. La manovra a cui citavo prima, cioè quello di ulteriormente abbassare il rendimento sui depositi della BCE, è proprio quello di spingere le banche ad impiegare diversamente la liquidità. Dove? Ovviamente facendo credito. Allora, intanto, sempre a proposito di politiche monetarie divergenti che vanno in direzioni opposte, ricordo anche un'altra notizia curiosa che è stata lungamente analizzata sempre dal Sole 24 Ore in questi giorni. Pensate che dal 2009 le banche centrali del mondo hanno operato in modo tale anche da determinare la situazione odierna della quale parliamo e che commentiamo, hanno tagliato i tassi di interesse, tutte quante, mi riferisco alla Banca Centrale Europea, quella americana, il Giappone, la Cina e tutte le altre. Senti quante volte, Nicoletta? 626, e hanno stampato molte migliaia di miliardi di dollari. Il tema è che ancora l'economia reale, tutto questo denaro, non è, appunto, lo vede. 800 24 00 24, l'abbiamo scampata perché immagino che questa notizia ti sarebbe piaciuta inserirla nel nostro domandone. Invece sono stata brava. Buona. Sai che ti dico, che la faccio subito la domanda del domandone, vediamo un po' se la sigla è pronta. Guardate, io veramente oggi non posso essere più buona di così, perché ve ne faccio una che è praticamente la risposta ce l'avete già sulla rampa di lancio della bocca. Che cos'è il CTZ? Veramente è facilissimo, che visto non è che siamo, la ZTL, non è la ZTL, non è nessuna sigla complicata neanche di un nome di un medicinale, e però insomma appartiene questa sigla al mondo dei titoli di Stato italiani, quindi se riuscite a dirci la definizione completa noi siamo contenti. Se poi volete spingervi oltre dandoci anche un po' una definizione un po' più completa di questo strumento di investimento, noi naturalmente saremo anche più contenti di regalarvi i nostri libri. Allora, Daniela da Milano, benvenuta. Buongiorno Deva e Alice, bello carino Alice. Però è Nicoletta, io Daniela. Come Nicoletta. Sì, che poi è un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, però mi piace anche Alice. Vabbè. Daniela, vabbè, ci dica. Buongiorno, io volevo fare una domanda ingenua. Io investirei volentieri solo su delle aziende di cui mi fido, da cui parteciperei con una parte del mio denaro. Se non che per far questo io devo dare l'azione, devo lasciarla in banca, e la banca per far questo, soltanto per tenerla, mentre io me la terrei volentieri in casa, non vedo perché no, e vuole essere pagata. Allora io faccio un investimento e pago la banca, non vedo proprio il perché. Io voglio dare del denaro solo all'azienda alla quale do fiducia. Allora Daniela, si fermi lì, perché è una domanda ingenua. Non è ingenua. Allora lei dice: io devo aprire un conto titoli, e praticamente il fatto di utilizzare un intermediario proprio non mi sta bene. Allora adesso ci pensiamo un attimo, cerchiamo di capire se ci sono delle alternative per investire direttamente nel capitale delle società. Io direi che il fatto che siano quotate, Daniela, intanto è una grande garanzia, perché devono rispettare tutte gli obblighi di comunicazione al Alfieri, per cui anche il fatto di passare attraverso un intermediario è direi anche una tutela in più per un risparmiatore. Non è proprio un dispetto che qualcuno vuole fare a Daniela. No, diciamo che è un'ulteriore cautela, perché ovviamente ci sono tutta una serie di vigilanze che vengono messe in piedi a fronte ovviamente di... Prima cosa, se vuole disinvestire, il mercato è abbastanza liquido e grazie anche all'intermediario può farlo in tempi brevi. Le ricordo cosa sta succedendo, Daniela, con la sottoscrizione di azioni di banche non quotate in Italia. Vabbè. E ci sono migliaia di persone che hanno sottoscritto azioni della Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e tanto pacchetto di banche, che non riescono a disinvestire niente perché la banca dice no. Per cui ci rifletta un po' bene, insomma, su questo aspetto. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Stavamo già monitorando che all'800240024 stanno arrivando già le vostre risposte al nostro domandone. Mi stiamo chiedendo se potete dirci che cos'è il CTZ, che cosa corrisponde questa sigla, se volete anche avventurarvi in una spiegazione, in una descrizione un po' più larga di questo strumento di investimento che ha a che fare con il mondo dei titoli di Stato italiani. Noi saremo naturalmente ben contenti di fare questa piccola lezione. Dottor Alfieri, JP Morgan, allora qua tra le politiche monetarie della Banca Centrale Americana, della Banca Centrale Europea, fra un po' sta scomparendo dalle pagine dei giornali quella che è stata la grande emergenza di questa estate, la Cina. Dove è finita? Beh, no, è lì ben presente, molto importante, molto pesante. Semplicemente in questo momento gli investitori molto preoccupati durante la fase agostiana, diciamo, delle vicende della Cina, si stanno rendendo conto che il gigante cinese sta rallentando, ma non si sta fermando. I tassi di crescita previsti per quest'anno sono leggermente sotto il 7%, e bisognerà che gli investitori accettino il fatto che la Cina non potrà più crescere ai tassi a cui eravamo abituati negli ultimi 10 anni. Crescerà probabilmente intorno al 6,5, ma questo non vuol dire che la Cina non si sta trasformando. È molto interessante, bisogna andare a vedere i dati aggregati. Quello che sta avvenendo in Cina è che i consumi interni stanno progressivamente diventando sempre più importanti. Se andiamo a vedere sul prodotto interno lordo cinese, i servizi ormai sono arrivati al 50%, e quindi gli altri aggregati, come ad esempio le industrie, stanno pesando molto meno. Quindi significa che le autorità cinesi stanno cercando di trasformare questa economia perché possa proseguire non solo basandosi sulle esportazioni, e quindi vuol dire sugli altri paesi, ma bensì con le proprie forze. Ci vuole tempo, ma noi crediamo che le manovre che sono state messe in piedi dalle autorità cinesi e quelle che verranno messe in atto nei prossimi mesi servono e sembrano servire a questo fine. Sto promettendo ai nostri ascoltatori da molto tempo di fare una puntata esclusivamente sul tema BRIC, queste economie appunto che venivano racchiuse anche in questo caso in questa sigla che era stata coniata tanti anni fa da Goldman Sachs e che racchiudeva appunto proprio come dire la situazione di quelle economie considerate più promettenti. Quindi c'è la Cina, naturalmente il Brasile, la Russia e l'India. Vedo già che luccicano gli occhi, sì, a Lorenzo Alfieri, perché no, il tema gli piace. Sì, no, c'è forse un aspetto molto interessante confrontare cosa sta avvenendo adesso in India, esatto, che per qualche anno era nell'ombra. Ora l'India crescerà presumibilmente sopra il 7%, probabilmente il prossimo anno addirittura intorno all'8,5%. È un'economia in piena crescita, hanno fatto delle riforme strutturali molto interessanti, contrapposte alla Cina che in questo momento è un po' in ombra. Ecco, semplicemente per ricordare a tutti gli investitori, c'è ciclicità nelle, esatto, economie, bisogna diversificare, bisogna ovviamente passare attraverso ovviamente investitori professionali. È sempre impossibile per l'investitore individuale cogliere il momento magico per entrare su un paese più piuttosto che un altro, perché come vediamo ci sono continuamente variazioni ed è importante quindi ricordarsi che... Esatto, come c'è stato qualche anno fa il momento d'oro del Brasile, che invece adesso ha addirittura un rating del debito pubblico spazzatura. Per cui da lì che voi che cosa state facendo, per esempio? Il Brasile adesso è un non paese lo prevediamo. Da cui disinvestire. Disinvestire. Comunque le previsioni per questo paese sono ahimè negative, nel senso pensiamo in una crescita negativa sia per quest'anno che per il prossimo anno. Siamo in un'area, in un paese, grazie per avermi posto la domanda, in un paese dove le riforme non sono ancora state messe in atto, quindi abbiamo quattro economie in questo momento che viaggiano su binari contrapposti. Tempo fa i BRIC viaggiavano tutti da una parte, ecco, non è sempre così. Infatti, tra l'altro, quando parliamo proprio più complessivamente del concetto paesi emergenti, continuiamo a identificare questo concetto con quelle quattro economie. Qualche volta ci aggiungiamo la S finale, ci mettiamo dentro il Sudafrica. Se voi invece oggi doveste darci un'indicazione di due aree particolarmente promettenti in prospettiva, in un'ottica ovviamente di lunghissimo periodo, perché questi paesi hanno necessità di maturare riforme e determinate condizioni economiche appunto con un lasso di tempo piuttosto lungo, che cosa suggerirebbe quali aree suggerirebbe di guardare? Ma in questo momento, per esempio, come dicevo prima, l'India è sicuramente un'area molto interessante. Pensiamo che alcune piccole economie dell'area asiatica che hanno molto sofferto in questo momento possano iniziare a riprendere una fase di crescita. Ad esempio in America Latina è interessante il Messico, perché è molto legata all'economia americana, però ripeto, sempre corollario a questo, noi chiediamo che questi tipi di investimenti vengano fatti attraverso strumenti professionali. È molto difficile cogliere il momento opportuno per entrare in paesi che sono molto lontani da noi. Infatti, facciamolo fare a chi vive localmente e capisce, intuisce immediatamente come muoversi. È impossibile disinvestire a volte in un'azione italiana come Ori, richiamo ancora l'esempio che ho fatto prima, figuriamoci investire direttamente in un'azione o cinese o indiana. Abbiamo la risposta di Teresa da Roma. Do ancora altri 30 secondi di tempo agli ascoltatori che vogliono rispondere al domandone: che cos'è il CTZ? Adesso Teresa le faccio rispondere. Solamente un commento a Lorenzo Alfieri su questa ricchissima stagione di trimestrali che stiamo vivendo dagli Stati Uniti all'Europa anche all'Italia. In che stato di salute sono complessivamente le aziende che stanno rassegnando i loro dati? Ma possiamo dire che in questo momento sicuramente l'Europa ha delle prospettive anche nel 2016 molto interessanti. Prevediamo una crescita degli utili probabilmente in Europa superiore al 10%, e all'interno di quest'area ricordiamo che paesi come la Spagna, ma anche per fortuna l'Italia, sembrano essere messe in ottima posizione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, una crescita degli utili più moderata rispetto agli anni scorsi, probabilmente intorno al 7-8%, però diciamo che queste due aree, Stati Uniti ed Europa, rimangono per noi aree centrali di investimento. Teresa da Roma, che cos'è il CTZ? Certificati del tesoro al zero coupon. Grazie Teresa, bravissima. Lo zero coupon è che non ha la cedola, no? Anche se è un titolo poliennale come tutti gli altri che riconoscono una cedolina, un rendimento, qua sul CTZ non c'è. Grazie Teresa, grazie a Lorenzo Alfieri. Nicoletta, noi torniamo domani, dai. Direi di sì, alle 10:30, che sì, dici? Dai, ok, dai, appuntamento qua. Appuntamento a domani.